GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'appello dei sanitari del pronto soccorso di Trieste, lavoro a ritmi insostenibili, rischio di errori, tempi di attesa molto lunghi, pazienti lasciati nei corridoi. Incidente mortale a San Vito al Tagliamento, una donna di 52 anni cade dallo scooter e viene investita da un'auto. Zeno D'Agostino nominato al vertice dell'Organizzazione Europea di Porti, un riconoscimento prestigioso anche per il ruolo di Trieste. La metalmeccanica regionale è in buona salute, secondo uno studio presentato ieri, ma alcune aziende attraversano una fase critica. Per Electrolux saranno circa 300 gli esuberi negli stabilimenti italiani, una trentina dei quali a Porcia. Approvato in Consiglio regionale il progetto di legge nazionale nel quale si chiedono limitazioni ai ricongiungimenti familiari dei migranti, polemiche fra maggioranza e opposizioni. Il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, Nelly Feroci, è intervenuto a un dibattito dell'Associazione Dialoghi Europei sul processo di integrazione europea dei Balcani Occidentali. A Pordenone attesi 8.000 ragazzi per l'iniziativa di orientamento dedicata agli studenti delle superiori. Calcio 1-1 fra Spezia e Udinese, la traversa nega il gol, vittoria del recupero a Wallace. Le 7:19 minuti e 22 secondi, buona giornata da Dario Ronzoni e da Paolo Roncoletta. Prima del tempo vi diamo conto della scossa di terremoto che è stata registrata poco fa, intorno alle 7 circa. L'epicentro è stata una scossa avvertita in buona parte del Friuli Venezia Giulia, in particolare sulla fascia costiera. L'epicentro è stato localizzato sull'Adriatico, nel mare Adriatico, a circa una ventina di chilometri dalla costa delle Marche, tra Pesaro e Ancona. La distanza dell'epicentro dal Friuli Venezia Giulia, dalle coste del Friuli Venezia Giulia, è di circa 190 chilometri. Il sommovimento è stato valutato di magnitudo 5.7 Richter. Non si segnalano comunque danni per la nostra regione. Passiamo ora al tempo. Il cielo è prevalentemente nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, c'è stata anche qualche debole piovigine, in particolare sulla fascia costiera, sulla zona costiera. Le temperature registrate alle 7. A Trieste abbiamo 15 gradi e 4 decimi, con mare quasi calmo, che ha una temperatura di 19 gradi. A Gorizia 11 gradi, poco meno di 11 a Udine, 7 gradi a Pordenone, 5 gradi a Tolmezzo, a Tarvisio e Forni di Sopra 2 gradi e mezzo, stessa temperatura in quota sullo Zoncolan e sul Lussari. A Tolmezzo ci sono 5 gradi, abbiamo detto, a Sappada temperatura sotto zero, meno 2 gradi, torniamo sulla costa, 13 gradi a Lignano e Grado. Le previsioni per oggi: sulla fascia occidentale cielo in prevalenza nuvoloso, sulla fascia orientale cielo da nuvoloso a coperto e in serata non si escludono deboli piogge. La situazione del pronto soccorso dell'ospedale triestino di Catinara è giudicata non più sostenibile dagli stessi vertici della struttura. Talvolta i pazienti sono costretti a rimanere nei corridoi. Il numero di persone da visitare rimane sempre molto alto, i tempi di attesa lunghissimi. Personalmente sente di non lavorare in sicurezza in questo momento? Assolutamente sì, perché i carichi di lavoro sono eccessivi, gli spazi sono estremamente esigui e soprattutto il pronto soccorso non ha la possibilità di scaricarsi. Sanitari che lavorano con il timore di sbagliare, pazienti che restano nelle barelle dei corridoi persino un'intera settimana, struttura vecchia e inadeguata. È esasperato il personale del pronto soccorso di Catinara, che arriva a contare 250 accessi al giorno, persone che, indipendentemente dal codice verde o rosso, vanno accolte, assistite e curate. Sempre più spesso ad arrivare sono persone anziane non gestite nelle case di riposo, nelle proprie abitazioni, senza alcun supporto socioassistenziale, e poi tanti senza tetto, che, dicono i sanitari, non vengono presi in carico dagli altri servizi del territorio. Jacopo Cipriani, infermiere. Vengono qui o in stato d'ebbrezza o vengono per mangiare e bere o addirittura solo per trovare un riparo perché hanno freddo. E poi? E poi noi garantiamo le cure anche a loro, come giusto che sia, e però rimangono qui da noi stanziando o nei corridoi o comunque in attesa di una sistemazione. A parlare di rischio clinico fuori controllo, in una lettera alla direzione, è il direttore Franco Comminotto, che ha chiesto all'azienda di dare in appalto il pronto soccorso dell'ospedale maggiore per concentrare il personale a Catinara. Necessario mai come ora, visto che 7 medici hanno rassegnato le dimissioni, se ne andranno entro marzo, 10 infermieri hanno chiesto trasferimento. La responsabile infermieristica Valentina Zoratto, in una lettera alla direzione, ha scritto: l'errore purtroppo è dietro l'angolo. credo sia una richiesta d'aiuto importante questa, perché un personale che si sta dimostrando così disponibile in tutte le fasi della pandemia, ma anche post pandemia, è un personale che comunque deve essere riconosciuto il valore di quello che fa, ma deve anche essere messo in sicurezza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I sindacati CGL, CISL e FIALS si dicono preoccupati per le condizioni in cui lavorano i sanitari, ma a loro giudizio questa situazione non potrà che peggiorare ulteriormente. Il personale ce la mette tutta, scrivono, ma è difficile garantire un'assistenza adeguata e preoccupano le ricadute sui cittadini. I sindacati auspicano che le richieste legittime non cadano nel vuoto. Chi è chiamato a dare risposte, conclude la nota, lo faccia in tempi rapidi. Anche il sindacato dei medici Aroi e EMAC parla di condizioni di lavoro insostenibile e chiede un intervento immediato della direzione generale. Il sindacato invoca tutele ai professionisti del pronto soccorso, in assenza delle quali verrà proclamato lo stato di agitazione. C'è stato un incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in regione. Una donna di 52 anni, Anna Contessi, di Sesto al Reghen, è morta per le ferite riportate in uno scontro frontale attorno alle 16.30 a Savorgnano di San Vito al Tagliamento, in via Santa Petronilla. La donna, a bordo di uno scooter, è scivolata lungo la carreggiata ed è finita contro l'automobile che arrivava dalla parte opposta. Sotto shock, la conducente della vettura, insegnante alla tisana, Anna Contessi, era nota nel mondo della ginnastica artistica e acrobatica, dove aveva ottenuto risultati importanti a livello nazionale. Moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono, protagonista di una lunga stagione ai vertici di Fincantieri. Commenti giunti da ogni parte d'Italia e anche da rappresentanti istituzionali e dell'economia del Friuli Venezia Giulia. La sindaca di Monfalcone e Cisinte ha voluto sottolineare le differenti vedute sul modello organizzativo dello stabilimento di Panzano. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Nicoli, ha definito queste parole inopportune in un momento luttuoso. Da parte sindacale è invece arrivato un riconoscimento per il dialogo che c'è stato su alcuni temi importanti. I funerali si terranno sabato a Roma. Decine da tutta Italia i commenti alle manifestazioni di cordoglio per la morte di Giuseppe Bono, 78 anni di cui 20 passati alla guida di Fincantieri, un vero protagonista dell'industria di Stato. A nome di tutti i dipendenti Fincantieri, l'attuale amministratore delegato Folgero e il presidente Graziano lo ricordano per la sua visione coraggiosa e attenta alle persone. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga sottolinea la sua capacità strategica unita alla dedizione alla causa del lavoro. Gli fa eco il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Abbiamo perso un manager che, grazie alle sue capacità, ha dato un contributo importante per il sistema industriale. Se n'è andato un grande uomo di impresa, dice Michelangelo Agrusti, che ha portato la cantieristica italiana ai vertici mondiali. Il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, rende onore al self-made man e alla sua lunga carriera. Bono, che fu membro del Consiglio Generale di Confindustria e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Incredulo Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Solo un mese fa gli hanno conferito la massima onorificenza, la targa dell'eccellenza alla premiazione dell'economia e dello sviluppo. Quella di Bono è una perdita anche per i sindacati. In lui, dice il segretario regionale della CGIL William Pezzetta, abbiamo sempre trovato un interlocutore leale anche in occasione di confronti aspri come quelli sugli integrativi, appalti e protocolli di legalità. Si distingue nettamente nei toni la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Profondo rispetto umano per questa perdita, dice, ma non posso trascurare le attese per il percorso annunciato e mai realizzato di rivedere il modello produttivo, sviluppare la manodopera e l'indotto locale e regionale. Questi obiettivi sono rimasti incompiuti e devono essere affrontati con decisione e coraggio. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico Orientale, è stato eletto nuovo presidente della ESPO, European Sea Ports Organization, massimo organismo di rappresentanza dei porti su scala continentale, che raggruppa 23 paesi. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per l'Italia e anche per Trieste. Nella nostra intervista spiega perché. ESPO è un soggetto importante, raggruppa tutta la portualità autorità, tutti diciamo, i 23 paesi che stanno nell'Unione Europea, che affacciano sul mare, chiaramente quindi sono esclusi quei paesi che non hanno il mare, e è diventato soprattutto negli ultimi anni un forte soggetto di raccolta di istanze a livello appunto europeo della portualità, e quindi anche un'azione abbastanza forte di dialogo con quella che è la Commissione Europea. È chiaro che una presidenza italiana porta l'Italia ad avere un'interlocuzione importante all'interno di questo ruolo che Expo ha nei confronti di Bruxelles. Va anche detto che questo è importante perché ritengo che non si siano fatte le dovute attività e azioni in questi anni, soprattutto per quanto riguarda la portualità italiana, ed è chiaro che all'interno di questo dialogo importante, privilegiato, Trieste, chiaramente essendo il porto che poi presiedo, assume un'importanza fondamentale in questo dialogo, quindi insomma è un ruolo importante. Expo è un soggetto molto rappresentativo e molto connesso a quella che è lo sviluppo anche della legislazione europea nelle nostre materie. In questo caso troviamo l'Italia e Trieste diciamo in prima linea in un'azione così importante a livello strategico e a livello europeo. A prescindere da quello che può cambiare per Trieste, fondamentalmente è il ruolo che Trieste ha assunto negli ultimi anni che ha permesso probabilmente anche la mia nomina, a prescindere dalle perché sono le capacità personali. È chiaro che si è lì perché si è presidenti di un porto che in questi ultimi anni ha già avuto e ha già cambiato una sua immagine a livello internazionale. Primo confronto sindacati Electrolux dopo l'annuncio di 4.000 esuberi negli stabilimenti in tutto il mondo, prevalentemente negli Stati Uniti. I manager hanno parlato di circa 300 esuberi per l'Italia, per la metà fra impiegati, senza precisare quale sarà lo stabilimento toccato dai tagli. Secondo Walter Zoccolanna, rappresentante sindacale della CGIL all'interno della fabbrica, gli esuberi a Porcia potrebbero essere una trentina fra gli operai prossimi alla pensione, che non verrebbero messi in pratica prima del 2024. A Porcia rimane un clima di preoccupazione. Da 3 mesi è nata la cassa integrazione, modulata in base alle richieste, con riduzione di orari, e gli ordini sono in caduta libera. Secondo lo studio dell'Osservatorio della Metalmeccanica, le aziende di questo comparto in Friuli Venezia Giulia vedono crescere l'export e hanno saputo innovarsi. Per la prima volta il Friuli Venezia Giulia ha un suo osservatorio della metalmeccanica, riunendo banche dati su più piattaforme per tracciare un percorso ragionato sul futuro del comparto. Ideato e coordinato dal cluster della metalmeccanica regionale Comet, si avvale dei dati di Innovation Intelligence FVG, strumento sviluppato di Ares Science Park, delle Università di Trieste e Udine e di Banca Intesa San Paolo. Un settore con più di 5.000 aziende in regione, dove l'innovazione gioca un ruolo di rilievo e la solidità economica delle imprese garantisce una buona base per affrontare la crisi energetica. Il buon andamento dell'elettromeccanica regionale si conferma anche nel primo semestre del 2022 grazie alle esportazioni, in salita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, soprattutto nei prodotti del metallo e della meccanica, mostrando un andamento migliore rispetto al dato nazionale. Sergio Barel, presidente di Cluster Comet. Il settore metalmeccanica ha superato la crisi della pandemia con un rimbalzo che continua nonostante in questi mesi diciamo di fattori avversi, i costi, l'inflazione, l'energia e quant'altro. Quindi questo ha dimostrato una grandissima vivacità del sistema metalmeccanico regionale, che non dimentichiamo vale il 50% della manifattura in regione. Un comparto in continua evoluzione, impattato dalla digitalizzazione, con una riconfigurazione di tutte le filiere mondiali di fornitura, dove l'attenzione è sulla formazione delle risorse umane. Questo è un grande fattore critico, ecco perché il rapporto con le scuole, con le istituzioni scolastiche, con le università, con gli ITS, quant'anche anche con le scuole dell'obbligo, diventa la chiave importante per poter accedere a manodopera qualificata, formarla, crearla. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un aggiornamento sul terremoto registrato in Adriatico. C'è stata una seconda scossa intorno alle 7:13, meno forte della prima, misurata con intensità 4 gradi Richter, epicentro sempre in mare, diciamo una quarantina di chilometri al largo di Pesaro, mentre la prima scossa, quella che è stata avvertita molto nitidamente in tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolare sulla fascia costiera, ha avuto una magnitudo 5.6 Richter, epicentro al largo di Senigallia, una ventina di chilometri dalla costa e a poco meno di 200 chilometri da Muggia. Non si segnalano comunque danni. Il continuo afflusso di migranti a Trieste rende sempre più difficile il lavoro di chi si occupa di accoglienza e i trasferimenti in altre regioni non sono sufficienti ad allentare la pressione. Anche ieri mattina parecchie decine di migranti al valico della Casa Rossa a Gorizia, almeno 70, più che nuovi arrivi, spiegano dalla questura, sono persone la cui identificazione non era stata possibile il giorno prima, quando al confine goriziano tra Italia e Slovenia di migranti ne erano arrivati oltre 150, solo una parte dei quali però dalla rotta balcanica. In giornata poi sono stati individuati a Piazza della Transalpina un'altra ventina di persone, tra loro anche donne e bambini originari del Burundi. Intanto davanti al CARA di Gradisca restano ancora accampati in tende i migranti che non sono riusciti a trovare spazio nel centro, tra i 25 e i 30, secondo la Caritas di Gorizia, che auspica di poterli ospitare tutti all'interno del centro d'accoglienza Bassa Soglia, una sorta di rifugio temporaneo da allestire a San Valeriano, sempre a Gradisca. Dal goriziano sono 175 i trasferimenti effettuati nel mese di ottobre, da Trieste 510, il doppio rispetto allo stesso mese del 2021, ma i nuovi arrivi sono molti di più e mettono in difficoltà il sistema dell'accoglienza. Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas di Trieste. Questa è una situazione che ci mette duramente alla prova perché Caritas Trieste è impegnata con l'accoglienza di circa 600 migranti e noi inoltre forniamo i pasti anche ai migranti ritrovati per strada quotidianamente, quindi noi siamo sull'ordine dei 1800 pasti al giorno, un numero per noi veramente spropositato. A Trieste intanto torna in alto mare la possibilità di allestire un dormitorio all'ex mercato della stazione, un'ipotesi che ora è la stessa amministrazione comunale a scartare. Servono interventi strutturali, dice l'assessore al sociale Carlo Grilli, e per questo siamo in contatto costante col Viminale. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Su questo argomento il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia ha diffuso una nota nella quale ricorda come 7.000 richiedenti asilo censiti nell'ultimo anno siano arrivati solo a Trieste, ma Gorizia, Udine e Pordenone contribuiscono in quota parte a questa perenne emergenza umanitaria. Anche se oggi i fari, scrive il SIUP, sono puntati esclusivamente sul Mediterraneo. E di immigrazione si è parlato ieri in Consiglio regionale, dove è stato esaminato un progetto di legge nazionale. Oggi è in programma una nuova seduta con il Question Time e la discussione di alcune mozioni. Con il sì della maggioranza e il no dell'opposizione, il Consiglio regionale invia al Parlamento italiano una proposta di legge per limitare i ricongiungimenti familiari per gli stranieri regolarmente residenti. Per portare in Italia un familiare basta oggi un reddito annuo di 9.000 euro, che diventano 12.000 per due congiunti, 18.000 per due o più figli minori. Limiti troppo bassi per il centrodestra. Una direttiva europea prevede che chi chiede il ricongiungimento abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e il parente senza gravare sul sistema sociale dello Stato, si fa notare. Il livello reddituale minimo sarebbe agganciato a quello per il pubblico patrocinio, oggi 11.000 euro, che diventano il doppio per ricongiungere due o più figli. La richiesta non si potrebbe presentare nei primi due anni di residenza, prevista poi una verifica puntuale degli spazi degli alloggi. Antonio Calligaris, Lega. Questa cosa è partita da Monfalcone, dove tramite il ricongiungimento abbiamo addirittura casi di uno straniero che lavora che riesce a portare in Italia sei persone che non lavorano e che invece restano a carico dell'assistenza. Il consigliere di Open Sinistra FVG Furio Honsel parla di una proposta infame, mentre dal Partito Democratico si fa notare che il senso della direttiva europea è favorire ricongiungimenti, non ostacolarli. Il consigliere PD Cristiano Sciaurli. Perché si sa, ed è dimostrato dai dati, dai numeri, che ricongiungere la propria famiglia a un lavoratore regolarmente soggiornante gli permette un migliore inserimento sociale, permette controllo, permette legalità. La proposta di legge approderà in Parlamento, ma la sua discussione non è garantita e dipende dalla volontà dei gruppi di calendarizzarla. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi l'incontro organizzato dal Partito Democratico di Trieste sul decreto anti-rave. Quali rischi ci sono per la libertà collettiva e personale? Si tiene alle 18 nella sede di Via della Geppa. Interverrà anche l'ex presidente del Tribunale di Trieste, Pier Valerio Reinotti. Altro appuntamento politico, l'incontro Cooperazione oltre i confini, promosso dal Patto per l'autonomia, che si terrà alle 18.15 al Culturni Dom di Gorizia. Interverrà Massimo Morettuzzo, segretario e capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l'autonomia. Il Centro Studi Dialoghi Europei, per la sua prima conferenza della stagione, ha organizzato ieri a Trieste un dibattito sull'integrazione europea dei Balcani occidentali alla luce della guerra in Ucraina. Di questo hanno discusso il presidente del Consiglio regionale Zanine, il segretario regionale dell'INCE Antonione e da remoto l'onorevole Fassino. A introdurre il dibattito è stato l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. All'ambasciatore abbiamo chiesto cosa produrrà nei rapporti tra l'Italia e la Croazia l'adozione dell'euro e l'entrata nel sistema Schengen da parte di Zagabria, passi che dovrebbero realizzarsi il 1° gennaio. Un dato molto positivo, vuol dire che è un paese che ha percorso tutta quella lunga strada che ora le consente di entrare a far parte a pieno titolo della nostra moneta comune, aumenta il livello di integrazione anche della Croazia con l'area dell'euro, diventano maggiori le prospettive di collaborazione economica, di investimenti reciproci tra due paesi che sono vicini, che sono amici, che oggi non hanno fondamentalmente ragioni di contenzioso, quindi è uno sviluppo sicuramente positivo. A Pordenone sono attesi oggi 8.000 ragazzi per la 2 giorni di punto di incontro, iniziativa di orientamento per i giovani delle superiori organizzata dalla Fiera di Pordenone. Ci saranno imprese, università e istituti anche al di fuori dell'area del Friuli Venezia Giulia per proporre idee di carriera e percorsi di studio. Abbiamo sentito Francesco Terrini, coordinatore dell'area commerciale e marketing di Pordenone Fiere, che ci ha raccontato cosa succederà. Punto d'incontro credo che sia un evento che riesce a coniugare bene queste tre anime che è la formazione, l'orientamento e il lavoro, in modo molto semplice, molto immediato. Un ragazzo può iscriversi e ascoltare un workshop anche con una testimonianza di un imprenditore, oppure può direttamente interagire con quello che è l'ente formativo che in questo momento lo interessa per farsi una cultura ampia. Diciamo che anche gli operatori, gli stessi ragazzi, ci dicono che le stesse informazioni si trovano anche su internet, sul web, ovviamente sulla rete ci sono tantissime informazioni, però la fruibilità diventa difficile, un rapporto umano, parlare con delle persone, parlare tante volte anche con dei colleghi che magari hanno già intrapreso quel percorso è molto più semplice, è molto più facile e molto più anche soddisfacente per chi lo fa. La fiera ha questo vantaggio che è il rapporto umano, molto spesso anche le università propongono dei corsi di laurea, li propongono con dei testimoni che sono gli stessi ragazzi che mi hanno finito il percorso e quindi sono più in linea, più in sintonia con quella che è l'età e sicuramente le idee che possono avere questi giovani. Quest'anno tra l'altro abbiamo coinvolto anche la consulta dei giovani del Friuli Venezia Giulia, della sezione di Pordenone, proprio perché ci desse degli spunti concreti e degli spunti che fossero dal punto di vista dei ragazzi, perché giustamente le risposte dobbiamo darle alle nuove generazioni e le risposte dobbiamo trarle su quelli che sono i loro desideri. Un workshop per presentare alle imprese gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria come la mediazione e la conciliazione. L'iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine punta a diffondere la conoscenza di procedure che hanno sempre più rilievo nelle politiche dell'Unione Europea e nazionali. La mediazione civile e commerciale in particolare consente di risolvere le controversie su diritti disponibili in modo semplice ed efficace con l'intervento di un mediatore che facilita l'accordo tra le parti. L'appuntamento è a Udine nella sede della Camera di Commercio in Piazza Venerio alle 14.45. Uno studio della SUGI realizzato insieme all'Università di Trieste ha evidenziato un alto livello di mercurio nei capelli dei triestini e in generale degli abitanti della costa, una quantità di 1,6 mg per chilo che per fortuna non supera le soglie della tossicità. È correlata alle quantità di pesce consumato nell'area e dipende da fattori geografici di lunga data. Ce ne ha parlato la professoressa Francesca Larese che ha condotto lo studio. Perché è noto che il Golfo di Trieste presenta delle concentrazioni di mercurio più alte di altre zone e perché il fiume Isonzo scarica del cinatro che proviene da una miniera slovena da secoli. Quindi le concentrazioni di questo minerale sono più alte e questo significa anche che il mercurio in parte entra nella catena alimentare attraverso i pesci, quindi è noto che nella nostra zona l'assunzione di pesce può essere associata a una maggior presenza di mercurio. L'indagine è stata fatta su un campione casuale di capelli che funzionano bene come marcatore per questo metallo e quello che abbiamo rilevato è che comunque abbiamo dei valori mediani che sono al di sotto dei limiti consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ben al di sotto di quello che è il livello di effetto non avverso, che si chiama NOEL suggerito, e quindi si tratta di una condizione tranquilla per quanto riguarda la situazione del gruppo. Però abbiamo rilevato che una quota di persone è al di sopra dell'1 mg pro chilo, che è il livello consigliato per le donne in gravidanza. Quindi la situazione è sicuramente nella norma, quindi come il messaggio che possiamo mangiare il pesce tranquillamente, che però siamo consapevoli che alcuni pesci, specie quelli di grande taglia, che non sono commerciabili nel nostro golfo, possono contenere quantità di mercurio superiore perché legato a questa situazione ambientale storica. Quindi nel nostro studio concludiamo dicendo che possiamo consigliare alle donne in gravidanza di fare pesce locale almeno di 4 volte al mese, mentre l'assunzione di pesce congelato è associato a livelli più bassi di mercurio perché provengono da altre zone. Nelle guide Michelin per il 2023 c'è una novità riguardante il Friuli Venezia Giulia. La locanda Devetac di Savogna di Sonzo ha ricevuto la stella verde per l'impegno sul fronte della sostenibilità, che considera la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto ai produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti e la riduzione dello spreco di risorse energetiche. Nella guida sono 7 ristoranti stellati in Friuli Venezia Giulia, tutti confermati, e non ci sono nuovi ingressi. Teatro, dopo la tappa a Roma, ritorna in regione Il Mercante di Venezia di William Shakespeare con Franco Branciaroli e la regia di Paolo Valerio. Lo spettacolo, una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sarà ospite dei teatri del circuito ERT e Friuli Venezia Giulia dal 9 al 13 novembre. Il dramma shakespeariano, che indaga scontri etici, rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati, vede Branciaroli nel ruolo principale, quello di Shylock, che si dibatte lungo un muro di mattoni che domina la scena. Lo spettacolo sarà il 9 novembre a Cividale del Friuli, il 10 a Casarsa della Delizia, l'11 a Sacile, il 12 a Cordenons e il 13 a Palmanova. Secondo concerto della stagione musicale del Circolo del Jazz Thelonious, con l'esibizione degli Ithaca 4T. Il progetto è una collaborazione transatlantica tra 4 musicisti, 2 italiani e 2 canadesi, nel campo dell'avant jazz e della musica improvvisata. La band è il frutto di una serie di incontri avvenuti lungo l'asse dell'Il Jazz Festival e del Vancouver Jazz Festival, e che hanno portato gli artisti a conoscersi e a suonare insieme. Il concerto alle 20:15 al CNULP di Via Madonna del Mare a Trieste. Sarà una ricerca nelle aree marginali della musica quella che andrà in scena a Palmanova con gli artisti norvegesi Parallax insieme alla violinista Anne Hitta. La band, che mescola tecniche, sonorità e generi, ha un'identità sperimentale. Uno dei loro metodi è la simulazione acustica dei suoni elettronici. Amano andare contro le convenzioni e sono aperti all'improvvisazione. Ad affiancarli ci saranno gli italiani Bulligan più La Manna. L'appuntamento è per stasera a partire dalle 20:30 alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni. La scrittura del Nord-Est è al centro del nuovo progetto Conoscere e incontrare uno scrittore in città, iniziativa ideata e promossa da Credia Agricolo Friuladria e Fondazione Pordenone Legge. 5 docuproduzioni dedicate ad altrettanti autori. Si parte stamattina con il veneto Ferdinando Camon, la cui opera sarà ripercorsa nell'incontro con 2 scrittori contemporanei come il pordenonese Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, e il padovano Romolo Bugaro. Entrambi hanno preso parte alla realizzazione del docuvideo A Futura Memoria, I luoghi, i libri e la storia, che sarà presentato per l'occasione, nel quale Ferdinando Camon si racconta con straordinaria verità e profondità. Appuntamento a Padova al Centro Culturale Altinate, spazio 35 alle 11. Serata di grande musica per la stagione cameristica Cromatismi di Chamber Music, diretta dalla musicologa Fedra Florit. Stasera l'Orchestra dei Virtuosi Italiani, una delle formazioni più attive e qualificate del panorama artistico internazionale, si esibirà insieme al talentuoso pianista russo Lukas Geniusas, che suonerà per la prima volta a Trieste. Il programma prevede musiche di Bach, Chopin e un finale con Felix Mendelssohn Bartholdy e la sua Sinfonia numero 9 in Do maggiore per archi. L'appuntamento è per le 20:30 nella Camera Acustica allestita al Teatro Miela di Trieste. I concerti del Conservatorio sarà dedicato alla memoria di Elena Marco, la giornalista triestina scomparsa nel dicembre del 2020. Il prossimo appuntamento al Tartini di Trieste. Alle 20.30 il chitarrista pesarese Eugenio Della Chiara, titolare della cattedra al Conservatorio della Città Giuliana, si esibirà in un itinerario di sonorità spagnole con brani di Gaspar Cassado, amico di Segovia, e la sonatina del madrileno Federico Moreno Torroba. La serata si chiuderà con l'esecuzione di Torre Bermeja di Isaac Albeniz. Per l'occasione Eugenio Della Chiara si servirà della chitarra costruita dal liutaio spagnolo José Ramírez che Elena Marco ha voluto donare al conservatorio. Veniamo allo sport, ancora un pareggio per l'Udinese, il quinto nelle ultime sei partite, e anche alla Spezia la formazione bianconera era andata sotto di un gol recuperato già nel primo tempo e c'è il rimpianto per un legno colpito in pieno recupero. Il pareggio è il risultato giusto per una partita giocata a viso aperto da due formazioni in cerca di rilancio. Aprono le danze i padroni di casa. Volata di Holm sulla fascia destra al decimo, cross basso in area per Zola che colpisce in scivolata, blocca Silvestri. Gli ospiti si fanno vedere al 19° con un'azione di contropiede. Lancio verticale di Lovric per Success che entra in area, dribbla Nicolau e segna. Dopo aver consultato il VAR, l'arbitro Piccinini annulla per fuorigioco dello stesso Success. Lo Spezia passa in vantaggio al 32°, bella apertura di Ampadu a sinistra per Arezza che entra in area e con un tiro sull'angolo alto opposto scavalca Silvestri. 10 minuti più tardi gli Aquilotti mancano il raddoppio, Ampadu, imbeccato sotto porta da Burabia, colpisce la traversa interna. Lo Spezia insiste, cross di Rezza toccato di testa da Holm che prolunga per Nzola. Il tiro al volo del franco angolano viene respinto da Silvestri. L'azione prosegue, Burabia sbaglia un passaggio, ne approfitta De Ulofeu che innesca Success, il quale scende lungo il corridoio centrale, si sposta a sinistra e mette a centro area. Lovric, che aveva seguito l'azione, è pronto a girare a rete. È il 43°. 2 minuti più tardi Zöt salva la porta dello Spezia con un miracolo su tiro di De Ulofeu. Nella ripresa calano ritmo e lucidità. Nel finale però l'Udinese fa tremare lo stadio Picco con una fucilata di Wallace che si stampa sulla traversa. Al fischio finale Luca Gotti ha abbracciato molti dei suoi giocatori. Per l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottile il pareggio è il risultato giusto. Il giudizio della prima parte meglio loro, poi la squadra brava e matura a trovare un gran gol del pareggio rimanendo lucida. E poi nella seconda parte, secondo me, dopo i primi 20-25 minuti, dopo si è cercato di vincere tutte e due, la partita è andata in stallo, tattico. Ancora sport, un oro e un argento per Giada Rossi ai campionati mondiali paralimpici di tennis tavolo di Granada in Spagna. Insieme a Michela Brunelli, la pordenonese ha vinto il titolo iridato nel doppio, battendo per 3-7-1 le rappresentanti della Thailandia. Giada Rossi, insieme a Federico Crosara, ha invece vinto l'argento nel doppio misto, perdendo per 3-0 contro la coppia coreana. Oggi scende in campo l'altro rappresentante regionale, Matteo Parenzane, e torna in lizza anche la Rossi nel singolare. 7:50 minuti e 40 secondi, apriamo la rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste apre con l'emergenza nel pronto soccorso. Nella parte alta della prima pagina la foto di Giuseppe Bono, definito l'ultimo grande manager di Stato. Tra i richiami la nomina di Zeno D'Agostino al vertice dell'Associazione dei Porti d'Europa e l'apertura dello stabilimento balneare La Lanterna anche in questa stagione, domenica il primo test. Le prime due pagine di cronaca di Trieste sono dedicate alla situazione del pronto soccorso e alla lettera appello inviata dagli operatori sanitari ai vertici di Asugi e alle istituzioni. Veniamo ad Udine, l'apertura del Messaggero Veneto è dedicata al superbonus 110%. Gli ostacoli al superbonus, le Poste sospendono la cessione del credito. In Friuli Venezia Giulia già investiti 1,1 miliardi di euro. In attesa di chiarimenti normativi, Poste e CDP, si legge nelle pagine interne, si sfilano dal riacquisto dei crediti legati ai lavori edili. A metà pagina la fotonotizia sul frontale di ieri pomeriggio, di cui abbiamo anche parlato, dove ha perso la vita una donna di 52 anni, Anna Contessi, a bordo del suo scooter. In fondo ancora lo sport, l'ennesimo pareggio dell'Udinese contro lo Spezia. Per la cronaca invece il tentato furto al ristorante Pizzeria Biffi in via Poscolle, finito dopo un inseguimento per le strade della città, ed è stato arrestato un uomo di 27 anni. Il complice, di 17, quindi minorenne, è stato denunciato. Il Gazzettino, edizione di Udine, apre invece sulla notizia della morte di Giuseppe Bono, ricordato qui con le parole del governatore Fedriga. Bono, leader che salvò Fincantieri. Al centro lo sport, con la fotonotizia dedicata appunto al pareggio dell'Udinese, e vicino il cambio di allenatore del Chierlins Muzane. Nelle pagine interne, spazio all'Ilia, l'imposta regionale sugli immobili. Il titolo del piccolo di Gorizia Monfalcone è Addio a Giuseppe Bono, rilancio Fincantieri. Stata notizia sull'inaugurazione della stagione di prosa al Teatro Verdi di Gorizia con Il Mercante di Venezia. Tra i richiami sulla colonna di destra, le presenze alla Rocca di Monfalcone, 3.700 ingressi in 10 mesi e il parcheggio gratuito per i residenti al polo intermodale. In prima di cronaca di Gorizia c'è l'intesa fra i sindaci Ziberna e Felcaro in rappresentanza della Capitale Europea della Cultura 2025 e del Collio per la promozione dell'intero territorio. In prima pagina di Monfalcone si parla del ruolo del garante per l'infanzia. A Pordenone invece il Messaggero apre sul progetto di ridimensionamento di Electrolux, un piano con 350 tagli e saranno tra i 300 e i 350 i lavoratori che, si legge, verranno lasciati a casa il prossimo anno da Electrolux nei 4 stabilimenti italiani del gruppo. Al centro anche qui la fotonotizia dell'incidente mortale avvenuto ieri a Savognano di San Vito al Tagliamento, mentre per la cronaca si segnala la stretta sulla Cimpello Sequals, dove saranno messe 2 auto Velox e i controlli verranno rafforzati. A fondo pagina lo sport, dove oltre al pareggio dell'Udinese con lo Spezia c'è spazio per l'impresa di Giada Rossi, l'atleta paralimpica di tennis tavola e campionessa del mondo di doppio per la seconda volta consecutiva. Sul Gazzettino di Pordenone, ampio spazio alla morte di Giuseppe Bono, subito sotto la notizia anche qui dei controlli della Cimpello Sequals, mentre per la cronaca la notizia dell'arresto da parte della Guardia di Finanza del cantante trap di San Martino al Tagliamento, trovato in possesso di cocaina, marijuana, anfetamine e chetamina, la droga del rave party. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione di programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Voi o Favelindi, che parlerà del nuovo corso all'Istituto Tecnico Superiore Malignani, che in collaborazione con Carnia Industrial Park ha avviato un biennio per diventare Energy Specialist, cioè esperto per la progettazione e manutenzione di impianti energetici. Alle 11.20 andrà in onda A Volo Radente con il direttore dell'Ater di Udine Lorenzo Puzzi. Illustriamo il piano degli investimenti volti a migliorare la classe energetica degli immobili e supportare le famiglie. Poi ci sposteremo a Tolmezzo per scoprire insieme all'impresa sociale Melius quali sono le difficoltà che da sempre colpiscono le aree interne. Torniamo poi a Udine per fare il punto su quanto è emerso dal terzo tavolo tecnico sulla mobilità, che stabilisce nuove regole di accesso al centro cittadino. I programmi regionali tornano alle 13.30. Termina così la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Paolo Roncoletta. In redazione ha collaborato Manuel Bussani, assistenza tecnica di Tommaso Vinoni e Carlo Morello. Appuntamento alle 11.10 per l'edizione flash, alle 12.30 per quella meridiana. Dopo la sigla c'è l'onda verde. Grazie per l'attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.